Casa. Vite e storie dietro l'azienda. Alberto Simonetti, oltre 30 anni di edilizia in terra marchigiana. Diana Marino. Le mie radici vengono da distante, sono radici contadine, vengono da una famiglia contadina. Mio padre era mezzadro su un terreno, non di sua proprietà naturalmente, era in mezzadria, su un terreno di un ettaro e mezzo, di un solo ettaro e mezzo, ci andavamo avanti tutti quanti in famiglia. Quindi sono radici profonde, radicate nella terra. Queste sono le radici di un imprenditore marchigiano, Alberto Simonetti, che 30 anni fa ha dato vita, insieme a sua madre Annunziata, a una piccola rivendita di materiali edili, divenuta oggi un'azienda distributiva nel settore dell'edilizia, dell'arredo e del design. La Fratelli Simonetti, nel corso degli anni, si è specializzata nel settore delle costruzioni, dalle fondamenta alle finiture di interni. I progetti che segue si trovano anche all'estero, in Russia, India, Emirati Arabi e Stati Uniti. E ora progetta e costruisce in sede case in legno su misura sostenibili e antisismiche. Ha sede a Civitanova Marche, dove si trovano 16 magazzini e 7 showroom su 15.000 metri quadrati di esposizione. Impiega 200 persone tra professionisti, architetti, arredatori e tecnici. Questi i numeri della Fratelli Simonetti, nata e rimasta sulla stessa terra. Questa terra marchigiana, che ha dato tanti nomi illustri anche nel discorso della cultura, nel discorso dell'industria, dell'artigianato, è una terra che ci ha preparato allo sviluppo dell'attività commerciale. A un certo punto della mia esistenza abbiamo deciso, insieme con la famiglia, di intraprendere un'attività commerciale, e abbiamo iniziato con una piccola realtà. Il nostro primo negozio era un locale di soli 30 metri quadrati, e neppure di proprietà, era un locale che noi avevamo preso in affitto. Quello che ricordo di quei tempi era la voglia di fare, la voglia di guardare avanti sempre e comunque, e di non aver paura di inseguire obiettivi importanti. Nei primi anni dell'impresa ci sono stati comunque sacrifici, anche se la Fratelli Simonetti è nata in un periodo di boom economico, con una domanda che reggeva, un mercato e una capacità di spesa delle persone sempre più in crescita. Alberto Simonetti dice di se stesso di essere un contadino prestato all'edilizia, e questo carattere ha avuto un ruolo chiave. Porta una grande umiltà, che è la cosa fondamentale e principale per andare avanti in qualsiasi tipo di attività. Quei primi tempi in realtà sono stati tempi importanti per la nostra azienda, perché ci ha dato un livello di crescita particolare, e sono stati gli anni diciamo di svuotamento dalle campagne, e tutti i contadini di allora, trovando lavoro nell'industria, si spostavano dalla campagna al paese, e lì è in quel momento che poi costruivano le loro case, le loro abitazioni, e noi fortunatamente abbiamo proprio iniziato in quei periodi, da allora fino ad oggi. Nonostante la crisi che ha colpito pesantemente il settore, la Fratelli Simonetti ha continuato a investire in spazi espositivi e passando dall'edilizia pura all'arredo, fino al design. Nel Simonetti Building Lab oggi si trovano tecnologie per costruire, ristrutturare e restaurare. Nel Simonetti Color Lab si progetta il colore fino a 71 milioni di varianti cromatiche, dai fondamenti alla specializzazione. Allora avevamo solo il settore del materiale edile pesante, e allora il cemento, ferro, laterizi, coperture, tetti, questo tipo di forniture era quello che noi potevamo offrire quella volta. Poi piano piano però la nostra azienda l'abbiamo ristrutturata inserendo altri materiali, materiali di finiture, dai pavimenti, rivestimenti, rubinetterie, sanitari. Nel tempo poi abbiamo ancora diciamo aumentato l'offerta con anche arredamento e oggettistica, fino ad arrivare ad oggi ad avere dei showroom molto molto importanti, emozionali. Ultima sfida, quella delle case in legno, perché oggi non c'è soltanto chi pensa a costruire una casa una volta nella vita, ma anche chi ha bisogno di un tetto e si sposta per esigenze di lavoro, di affetti o di vita. e la casa deve seguirlo, dice Alberto Simonetti. Quindi ha bisogno di un'abitazione veloce da costruire, su misura, ma anche antisismica, con prestazioni termiche e acustiche sostenibili. Abbiamo affrontato anche il discorso, quella nicchia, per adesso è una nicchia della casa in legno, non più diciamo la casa tradizionale in cemento, mattoni, roba varia. Quindi abbiamo quattro ingegneri, architetti che progettano continuamente case in legno, ma a differenza di tanta altra nostra concorrenza che fornisce solo e esclusivamente il legno, quindi le travi, i pilastri, il solaio, noi riusciamo invece con le nostre strutture a dare un servizio completo e far fare al nostro cliente una scelta completa delle finiture, della cucina, del bagno, delle finestre, delle porte, di qualsiasi prodotto che serva per completare questo discorso. E in più, per quei clienti che non hanno la possibilità di avere artigiani o imprese per la costruzione, diamo anche quel servizio della costruzione chiave in mano, quindi riusciamo a fare un discorso chiuso a 360 gradi. La casa deve essere non solo un nido, ma anche solida, dice Alberto Simonetti, perché qui sono le radici per gli italiani. La casa rimane sempre una radice, la casa rimane sempre la cosa più importante per gli italiani. E per altri invece non è così tanto importante, che cambiano casa 7, 8, 10, 15 volte nella loro vita, invece qui in Italia ci sono proprio le radici della casa di proprietà. E ora, dopo la storia di fratelli Simonetti, quella di una piccola impresa, la soluzione di Be My Eye. Imprese e clienti della grande e piccola distribuzione, siete sicuri che i vostri acquisti e i vostri prodotti siano dove e come li immaginate? Un occhio virtuale e reale ve lo dirà. Come? La soluzione c'è grazie a un'app, Be My Eye, e una visita fisica di una persona che la utilizza e appunto fa da occhio, Eye, in un punto vendita. Be My Eye, nata nel 2011, ha già fatturato circa €1 milioni nel 2014, è già attiva in Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Spagna e ha una rete di migliaia di rilevatori iscritti che possono effettuare piccoli lavori ed essere pagati. Uno dei fondatori, Luca Antonietti, amministratore delegato di Be My Eye, spiega come funziona l'occhio digitale e il bollino blu virtuale. L'idea di Be My Eye nasce dal fondatore Gianluca Petrelli, che è mio collega e socio, il quale aveva una ditta di prodotti alimentari e un giorno ha deciso di andare a vedere in alcuni supermercati se il suo prodotto era presente come concordato e se la sua promozione fosse esposta correttamente, e con grande sorpresa non ha trovato né il prodotto né la promozione. Allora ha chiamato una società di ricerche di mercato e ha chiesto un preventivo per andare a verificare queste cose, e questa società gli ha fornito un preventivo carissimo e dei tempi di realizzazione assolutamente improponibili. Per cui si è detto, ma caspita, una cosa così basterebbe mandare qualche ragazzo con l'iPhone a farmi delle fotografie. E da lì un'idea fulminante di inventare questo nuovo modo di fare ricerca di mercato. Ecco, ricerca di mercato sul campo con un occhio, Be My Eye vuol dire sì, il mio occhio, e ovviamente poi ha ruolato anche tutta una squadra oltre a voi fondatori. Sì, noi abbiamo costruito un'azienda, oggi siamo in 18, ma soprattutto abbiamo arruolato più di 50.000 persone. Chiunque può scaricare l'applicazione da Apple Store o da Google Play e diventare un nostro occhio. Solitamente le società di ricerca tradizionali hanno una rete di persone sul terreno di 500, 800, 1000 rilevatori. Noi in realtà abbiamo una rete che è espandibile a dismisura. Oggi ne abbiamo 50.000 in ogni angolo d'Italia. Sono normali consumatori, studenti, casalinghe, lavoratori, persone che sono in giro e che riescono a guadagnare qualcosa, a dare valore al loro tempo libero andando a fare un piccolo job. Aiutate gli altri, ma chi ha aiutato voi? Vi siete aiutati da soli? No, le idee sono belle, ma poi necessitano anche di investitori. Noi abbiamo alle nostre spalle dei fondi di investimento importanti, abbiamo dei professionisti, abbiamo delle persone che ci hanno creduto e che hanno contribuito a finanziare l'iniziativa. Ecco, come livelli di investimento più o meno, migliaia, centinaia di euro? Noi abbiamo raccolto qualche milione. Sì. L'anno scorso siamo stati la terza startup più finanziata in Italia. Bene. Abbiamo raccolto l'anno scorso 2 milioni. Parliamo di cifre e di numeri, perché non si può essere azienda sana se non si pensa all'ambiente, al sociale, ma anche a una sana economia business. Qual è il vostro modello di business? Noi siamo un modello un po' particolare, siamo un C2B, cioè un consumatore verso il business. Mettiamo in contatto tanti consumatori, migliaia, che vendono la loro piccola prestazione ad un'azienda e noi siamo un po' gli intermediari. Arriveremo a un bollino Be My Eye per le offerte giuste. Ma noi non è che andiamo a controllare se l'offerta è giusta, andiamo a controllare, a verificare se l'offerta, come l'azienda ha concordato con il distributore. Sì, come dice lei, può essere anche un bollino, una pagella, un punteggio. Questo aiuta moltissimo l'azienda a essere coerente sul mercato ed è un vantaggio per il consumatore che riceve un servizio e una qualità migliore. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.